3. Marito e padre. La signora Shelby era uscita. Elisa, in piedi sulla veranda, seguiva la carrozza della sua padrona con triste sguardo quando si sentì posare una mano sulla spalla. Si volse indietro e un raggiante sorriso illuminò i suoi begli occhi. «Che? Ah! Sei tu, Giorgio! Oh, come mi hai spaventata! Ma quanto sono felice di vederti! La signora è uscita per tutta la sera, io sono libera! Vieni nella mia cameretta!» Così dicendo, lo condusse in una piccola stanza che metteva sulla veranda, nella quale solitamente ella lavorava, portata della voce della padrona. «Quanto sono contenta! Ma perché non sorridi tu? Perché non guardi il nostro Enrichetto? Vedi come cresce tutti i giorni?» Il bimbo guardava timidamente il babbo, stringendosi alla madre. «Non è un visetto che innamora», disse Elisa, rimuovendo le lunghe ciocche per stampargli un bacio sulla bocca. «Oh, non fosse mai nato», rispose Giorgio con malumore. «Vorrei non esser nato neppure io». Sorpresa, spaventata, Elisa si lasciò cadere sopra una sedia, appoggiò la testa alla spalla del marito e proruppe in pianto. «Elisa mia, sono pur crudele a parlarti così, poverina», disse teneramente. «Oh, perché mai mi conoscesti? Senza di me potresti essere felice». «Oh mio Giorgio, perché dire tali cose? Che cosa ti è dunque accaduto di sì orribile? O che cosa ti minaccia? Eppure nulla ha turbato la nostra felicità fino a questi ultimi giorni». «Sì, cara, nulla, nulla». E tirando il fanciulletto tra le sue ginocchia, ne contemplò lungamente i grandi occhi neri, passando le dita nelle ciocche dei suoi capelli. «È tutto il tuo ritratto, Elisa, e tu sei la più bella donna che finora io abbia vista e la migliore che io abbia vagheggiata col pensiero. Ma, oimè, perché dovevamo incontrarci? Giorgio, come puoi parlare a questo modo?» «Sì, Elisa, tutto è miseria, miseria, miseria. La vita per me è amara come il fiele. Io non sono che un meschino derelitto, senza barlume di speranza. Null'altro posso fare per te che trascinarti nella mia rovina. A che vale darsi briga, imparare, tentare d'essere qualche cosa? A che vale il vivere? Io vorrei essere morto». «Oh mio diletto Giorgio, è male ciò che vai dicendo. So quanto soffristi perdendo il posto nella fabbrica e so quanto è duro il tuo padrone, ma... Sì, paziente, te ne supplico, chissà, forse...» «Paziente?» disse egli interrompendola. «Non lo sono stato, finora. Mi sfuggì un detto solo quando egli venne a togliermi senza ragione da un luogo dove tutti mi dimostravano benevolenza. Gli resi conto dei miei guadagni fino a un centesimo e ciascuno attesterebbe che io lavoravo a dovere». «Per verità è cosa orribile», disse Elisa. «Ma poi alla fine egli è tuo padrone, mio padrone. E con quale diritto è mio padrone? Ecco ciò che domando a me stesso. Quali sono i suoi diritti sopra di me? Non sono un uomo alla pari di lui. Io valgo più di lui. Mi intendo meglio di affari. Sono più abile amministratore. E leggo e scrivo meglio di lui. E non gli devo niente. Tutto ciò l'ho compreso da me. Senza lui, a dispetto di lui. Dunque, con qual diritto mi adopera come una bestia da soma? Con qual diritto mi toglie da occupazioni alle quali io sono atto più di quanto egli non sia, per condannarmi alle fatiche di un cavallo? Egli pretende umiliarmi, dice, e a questo intento si diletta di caricarmi dei lavori più aspri e più vili. Giorgio, tu mi atterrisci. Non ti ho mai udito parlare a questo modo. Io temo che tu ti lasci trarre a qualche cosa di terribile. Comprendo i sentimenti tuoi, ma sii prudente, te ne supplico, per l'amore che mi hai, per amor del nostro Enrico». «Fui prudente. Fui paziente, ma le cose vanno ogni giorno peggiorando. Egli spia tutte le occasioni per insultarmi e avvilirmi. Credevo di poter fare il mio lavoro e trovar poi qualche momento di posa da dedicare alla lettura e allo studio, ma più egli vede che io posso fare, più mi carica. Benché io non proferisca mai parole, egli pretende che io sia posseduto dal demonio e dice di volerlo scacciare da me, ma badi bene. Uno di questi giorni esso non uscirà in guisa che non gli piacerà molto, o io mi inganno forte». «Ahimè, ahimè, che sarà di noi?» esclamò dolorosamente Elisa. «Ieri, appunto, io caricavo una carretta di pietre e suo figlio stava colà facendo fischiare la frusta sì presso alle orecchie del cavallo che la bestia se ne inquietava. Lo pregai di desistere con quella maggior urbanità che mi fu possibile, ma egli continuò. Rinnovai la preghiera ed egli mi rispose col darmi dei colpi. Provai allora di tenergli la mano, ma il manigoldo si pose a gridare e corse a dire che io l'avevo battuto. Suo padre si infuriò. «Ti farò vedere ben io chi è il tuo padrone», egli disse. E legatomi a un albero, tagliò delle bacchette che diede a suo figlio dicendogli di flagellarmi finché fosse stanco. E così fece. Ma io glielo farò ricordare un giorno. La fronte dell'uomo si offuscò e i suoi occhi scintillavano di una luce sinistra che fece tremare sua moglie. «Con qual diritto costui è mio padrone? Ecco quello che voglio sapere!» egli esclamò. «Ma», disse mestamente Lisa, «io credetti sempre che bisogna obbedire al proprio padrone e alla propria padrona e che senza ciò non sarei cristiana. Per te, già si intende, ti allevarono come loro figlia, ti nutrirono, ti vestirono, ti colmarono di carezze, ti fecero istruire, hanno un certo diritto sopra di te, ma io fui battuto, schernito, abbandonato. Che dovere mi lega al mio padrone? Io mi riscattai 100 volte col mio lavoro, non voglio rimanere più a lungo in un simile stato. No, non voglio», esclamò con voce minacciosa ed energica. Elisa restò muta e tremante. Era certamente la prima volta che vedeva il suo Giorgio in quella disposizione d'animo e la sua indole tutta dolcezza pareva piegarsi come un giunco al soffio di quella violenta collera. «Ti rammenti del cagnolino che mi avevi dato? La povera bestia dopo la mia partenza era il solo conforto che io avessi. Dormiva accanto a me la notte, mi seguiva di giorno, mi guardava come se mi comprendesse. Ebbene, uno di questi giorni io gli davo da mangiare certi meschini avanzi raccolti all'uscio della cucina, quando venne a passare il padrone. Tosto egli grida che io alimento quel cagnolino a spese di lui e che se ciascuno dei suoi negri si incapricciasse d'averne uno, le sue facoltà non vi basterebbero. Mi ordinava perciò di porgli una pietra al collo e di gettarlo nello stagno. Oh, Giorgio, tu non lo facesti, è vero?» «Io no, ma lui lo fece. Egli e suo figlio gettarono nell'acqua il mio cagnolino e lo oppressero di pietre fino a che restò annegato. Il meschinello guardava tristemente verso di me e sembrava che domandasse perché non lo salvavo. Fui frustato per non averlo voluto uccidere. Non importa, il padrone s'accorgerà che io non sono di quelli che il frustino doma e verrà la mia volta se egli non sta allerta. Ma che vai tu meditando? Oh Giorgio, non ti lasciare almeno trarre ad atti colpevoli. Confida in Dio, fai il bene ed egli ti scamperà. Tu sei cristiana, Elisa, ma io non sono cristiano. Il mio cuore è pieno di amarezza, io non so confidare in Dio. Perché lascia egli che le cose vadano a questo modo? Giorgio, abbiamo fede. La signora dice che quando ogni cosa nostra sembra andare a rovescio, noi dobbiamo essere certi che Dio conduce il tutto per il meglio. Sì, è cosa facile a dirsi quando non sa da far altro che coricarsi sopra un sofà o andare a spasso in carrozza, ma io scommetto che al posto mio ella parlerebbe altrimenti. Per me, con tutto il mio desiderio di far bene, sento il mio cuore ribellarsi. Io non posso sottomettermi. Tu stessa non lo potresti. E proveresti ciò che io provo, se tu sapessi tutto. Ma non sai nulla. Che pericolo ci sovrasta dunque? Ecco che te lo dico. Il padrone qualche tempo addietro dichiarò che era stato pazzo a permettermi di sposarti, che odiava gli Shelby e tutta la loro razza perché sono alteri e si credono al di sopra di lui, che tu mi rendesti superbo, che non mi permetterà più di venire a vederti. E ieri mi ingiunse di pigliar Mina in moglie e di stabilirmi seco lei in una capanna sotto pena di vendermi per il sud. «Come?» disse Elisa. «Non mi hai forse sposata dinanzi a un ministro come se tu fossi un uomo bianco?» «Oh, ma non sai che uno schiavo non può ammogliarsi? Nessuna legge di questo paese protegge il suo matrimonio e se piace a costui di separarci, tu non sei più mia moglie. Ecco il perché io vorrei non averti mai veduta, né essere mai venuto al mondo. Non sarebbe stato forse meglio per noi due e per questo fanciullino, poiché la medesima sorte gli è riservata?» «Oh, il padrone nostro è così buono. Sì, ma egli può morire. E il nostro figlioletto sarà venduto al primo che capita. Come mai dobbiamo rallegrarci di vederlo tanto leggiadro, vispo e grazioso? Elisa, te lo dico io. Ciascuna delle amabili qualità di tuo figlio sarà una spada che ti trafiggerà il cuore. Egli varrà troppo denaro perché tu possa conservarlo.» Queste ultime parole ferivano Elisa nel più vivo dell'anima. Il pensiero del mercante visto quella mattina le balenò alla mente, impallidì e il respiro le mancò. Ella volse inquieta lo sguardo a cercare il suo Enrichetto, che stanco di essere testimonio di un colloquio così grave, si era allontanato bel bello e correva intorno alla veranda a cavalcioni del bastone del signor Shelby. Un momento fu tentata di mettere a parte suo marito di tutte le sue apprensioni, ma pensò che egli soffriva già troppo e che non bisognava affliggerlo maggiormente. «No, no», disse ella in cuor suo, «sarebbe per lui troppo grande rammarico. No, non voglio dirgli ciò che penso, e poi la signora non mi inganna di certo». «Dunque, Elisa mia», disse Giorgio con viso tetro, «addio, me ne vado». «Tu parti, Giorgio? E dove vai?» «Al Canada», rispose egli, frenando la sua emozione, «e di là io ti riscatterò. Sola speranza che ci resti. Tu hai un buon padrone che non ci ricuserà di vendere te e il figlio. Se Dio mi aiuta, riuscirò a comperarvi entrambi». «Ma guai se tu fossi preso!» «Non mi prenderanno. Piuttosto morrò. Sarò libero, te lo dico io, Elisa, o morrò». «Non ti ucciderai?» «Sarebbe inutile, mi uccideranno abbastanza presto gli altri, ma sì, certa, che non mi faranno scendere vivo giù nel fiume». «Oh, Giorgio, per l'amore che mi porti, usa prudenza, non fare alcuna malazione, scaccia le tentazioni che ti assalgono. Tu sei spinto a qualche estremo, lo vedo, ma sii cauto. E poiché te duo può partire, va. Giorgio, ma abbi giudizio e prega Dio che ti aiuti». «Ebbene, Elisa, ascolta, ecco il mio divisamento. È saltato in capo al padrone di spedirmi con una lettera di filato al signor Sims, che abita un miglio lontano di qua. Egli si aspetta certo che io venga qui da te a narrarti tutto ciò che mi pesa sul cuore e si compiace nel pensiero di fare in tal guisa maggior dispiacere agli Shelby. Ebbene, io torno a casa tutto rassegnato, intendi bene, come se nulla fosse. Farò alcuni preparativi che mi aiuteranno per la partenza e fra pochi giorni qualcuno mi cercherà. Prega per me, Elisa. Forse Dio esaudirà le tue preghiere». «Tu pure pregalo, Giorgio, e confida nella provvidenza, ella non t'abbandonerà». «Ora dunque addio», disse Giorgio, tenendo strette le mani di Elisa e fissando lo sguardo nei suoi occhi. Vi fu un lungo silenzio, perché erano le ultime parole che Giorgio pronunziava, indi seguirono lacrime, singhiozzi e tronche voci d'addio. Marito e moglie, datisi un ultimo abbraccio, si separarono. 4. Una serata nella capanna dello zio Tom. La capanna dello zio Tom era un'abitazioncella costruita con grossi tronchi d'albero vicina alla casa, come si chiama nel linguaggio dei neri la dimora del padrone, e si apriva sopra un giardinetto nel quale ogni estate, mercé cure diligenti e assidue, preparavano fragole, lamponi e altra frutta, e bei legumi in buon numero. Una gran begonia porporina e un rosaio ricco di mille fiori si intrecciavano sulla facciata, celandone quasi del tutto i materiali. Magnifici fiori, quali il giglio, la margherita reale, la petunia, i crisantemi, i volubilis ed altre piante autunnali, vi sfoggiavano la maestosa loro bellezza sotto gli occhi della zia Clo, che in essi poneva la sua compiacenza e il suo orgoglio. Entriamo ora nella sua capanna. Il pasto della sera era già terminato alla casa, e la zia Clo, che nella sua qualità di cuciniera in capo presiedette alla preparazione di quello, ha lasciato i suoi subalterni l'incarico di lavar le stoviglie e rimetter la cucina in buon ordine, per venire ad apparecchiare la cena del suo uomo. Il rotondo e nero viso di lei è così liscio e brillante che a gran fatica puoi fare a meno di credere non sia stato pulito in quella guisa medesima che le casseruole. Sulla sua larga faccia, sormontata da un turbante a vari colori, brilla un contento, misto a un certo che di amor proprio ben naturale nella cuoca più abile dei dintorni, quale la zia Clo era per fama. E se lo meritava? Nel cortile non c'era pollo né anatra, né perfin gallinaccio che, vedendola apparire, non assumesse un aspetto grave e non si mettesse a meditare sulla sua fine, giacché, vedendo il pollame, ella non pensava che ad acconciarlo, schidionarlo, arrostirlo, e il suo volto prendeva tale espressione da riempire di terrore qualunque pollo un po' riflessivo. Le sue torte, troppo variate per farne qui la nomenclatura, erano misteri sublimi agli occhi di artisti meno abili. Bisognava vederla, allorché in un accesso d'onesta allegria ed ingenua compiacenza ella, tutta gongolante, raccontava gli sterili sforzi di questa o di quella sua rivale per tentare di raggiungere la sua perfezione. L'arrivo di ospiti, la faccenda di pranzi, di cerimonia, destavano tutte le potenze dell'anima sua, E il più gradito spettacolo era per lei la vista dei mucchi di valigie e di sacchi da viaggio scaricati sotto la veranda, perché ciò le annunziava nuovi ospiti da trattare. Lasceremo dunque per un momento la zia Clo tutta intesa ai suoi lavori culinari e visiteremo il resto della sua dimora. In un canto c'è un letto coperto di una coltre candida come neve a cui stendesi vicino un pezzo piuttosto grande di tappeto. Questa parte della capanna rappresenta la sala ed è tenuta in grandissima considerazione. Perciò è il più che sia possibile difesa contro le vagabonde incursioni dei ragazzi. Si vede nell'angolo opposto un altro letto di più modesta apparenza. Il muro al di sopra della cappa del camino è ornato di varie incisioni che rappresentano soggetti di storia sacra e un ritratto del generale Washington, disegnato e colorito in modo che l'eroe ne sarebbe più che meravigliato se avesse la disgrazia di vederlo. Sopra una rozza panca sedevano alcuni fanciulli coi capelli fitti e crespi come lana, gli occhi neri e vivi, le guance di una lucidezza oleosa. Essi presiedevano ai primi passi di una sorellina, la quale si alzava in piedi, si reggeva in bilico per qualche istante e quando tentava di muoversi crollava in terra, provocando le pazze risa dei fratelli, cui pareva che ella avesse fatto la più spiritosa cosa del mondo. Dinanzi al fuoco, una tavola un po' zoppa era coperta di una tovaglia e vi facevano mostra dei più vivi colori tazze e piattelli unitamente ad altre cosucce che lasciavano supporre prossimo l'arrivo della cena. A questa mensa era seduto lo zio Tom, del quale dobbiamo fare ai nostri lettori un fedele ritratto, essendo egli l'eroe principale della nostra narrazione. Lo zio Tom è un uomo d'alta statura, di forza erculea, di largo petto. Il suo viso è di un bel nero lucido, i suoi lineamenti, che sono quelli del vero tipo africano, hanno l'espressione della gravità e del buon senso a cui si uniscono una benevolenza e una grazia innate. In tutto il suo aspetto si scorge un non so che di dignità e di rispetto di sé medesimo, nonostante un'apparenza di semplicità. Egli aveva in mano una lavagna sulla quale stava occupato con grande attenzione a formare lentamente e diligentemente alcune lettere, copiandole da un esemplare, mentre il suo giovane maestro Giorgio, giovinetto di 13 anni, vivace e intelligente, con tutto il sussiego di un pedagogo, sorvegliava quell'esercizio dello zio. «Così non va bene, zio Tom, non da quella parte», diceva Giorgio vivamente a Tom, che si affannava di torcere a rovescio la coda di una G. «Non vedete, zio, che ne fate una Q?» E qui Giorgio, presa in mano la matita, tracciò quella lettera dell'alfabeto con tanta prestezza che Tom ne rimase sbalordito. «Si fa proprio così?» disse Tom, guardando con maraviglia e rispetto il suo giovane maestro, che moltiplicava rapidamente una quantità di G e di Q perché gli servissero di esemplare. Indi, ripresa la matita nella mano inesperta, ricominciò con pazienza a copiare. «Oh, come i bianchi fanno bene tutte le cose!» disse la zia Clo fermandosi mentre stava strofinando la padella con un pezzo di lardo infilzato sulla punta d'una forchetta. Poi, guardando con orgogliosa compiacenza il giovinetto, soggiungeva: «Come sa ben leggere e scrivere corrente, e chi crederebbe che la sera egli venga a ripeterci le sue lezioni? Oh, è una stupenda cosa davvero!» «Ma zia Clo», disse Giorgio, «io incomincio a sentire una maledetta fame. La torta che avete messa in forno deve essere ormai cotta». «Sì, fra pochi istanti, padroncino Giorgio», riprese la zia Clo, sollevando cautamente il coperchio per gettarvi un'occhiata. «Sì, colorisce bene, prende un aspetto magnifico». «Oh, lasciate fare a me. L'altro giorno Sally voleva provarsi a farne una. Io glielo permisi, tanto per insegnarle, ma presto dovetti scacciarla di cucina. Non posso veder sprecare tante cose buone. La torta era tutta gonfia da una parte, aveva forma di torta come la mia scarpa». «Via, via, tanto lo so. Certe cose debbo farle da me». E così dicendo, piena di dispregio per l'ignoranza di Sally, la zia Clo sollevò il coperchio della teglia e lasciò vedere una torta perfettamente cotta, di cui non si sarebbe vergognato il più abile pasticcere di una grande città. Era questa la pietanza principale e, vedutala proprio a tiro, la zia Clo corse lietamente a metterla in tavola. «Su via, Pietro e Mosè, fatevi indietro, negrettini impertinenti. Lasciatemi passare. Lesti, via di qua. Anche tu, Dolly. La mamma ti farà buscare qualche cosa. Ora, padroncino Giorgio, potreste sbarazzare la tavola dei vostri libri e prendere posto accanto al mio vecchio. Io vi metterò innanzi le salsicce e in un batter d'occhio avrete il piatto pieno di leccornie. E volevano che io cenassi in casa, disse Giorgio, ma invece sono venuto qui perché sapevo che c'era qualche cosa di buono. Appunto, mio bel cuoricino, disse la zia Chloe versandogli nel piatto le frittelle calde. Ben sapete che la vecchia zia vi serva sempre il meglio. Basta, basta, zia. Oh, lasciatemi fare, ella lo interruppe. Giù le mani. E così dicendo, la zia Chloe diede un buffetto a Giorgio, il che era un segno della sua pazza allegria, e tornò frettolosa alla padella. Diamo ora l'assalto alla torta, disse Giorgio quando ebbe fatto sparire le frittelle e brandì un coltellaccio sopra l'oggetto in discorso. Misericordia, padroncino Giorgio, esclamò spaventata la zia Chloe afferrandogli il braccio. Con quel brutto coltellone finirete col guastarmela tutta. Aspettate, ho qui un vecchio coltello ben affilato che tengo a bella posta per questo servizio. Esso taglia le fette sottili come un velo. Ecco, mangiate e non avrete mai messo miglior boccone sotto il dente. Tom Lincoln pretende, disse Giorgio parlando a bocca piena, che la loro Jenny sia una cuoca più brava di voi. I Lincoln la sbagliano all'ingrosso, disse la Chloe con un piglio sprezzante. Essi sono, se volete, brava gente, di buona pasta, ma se trattasi di fare alcuna cosa in regola, non sanno nemmeno da quale parte si cominci. Confrontate di grazia padron Lincoln con padron Shelby, Dio buono, e la signora Lincoln sa forse arredare una camera meglio della mia padrona? Se ne conosce forse una più bella della sua? Via, via, non si parli più dei Lincoln. Ciò detto, la zia Chloe scosse il capo come chi si persuade di ben conoscere la gente. Benissimo, ma io ricordo d'avervi inteso dire che Jenny è una cuoca piuttosto buona. Davvero? Soggiunse la zia Chloe. Davvero ho potuto dir questo? Ma ella è una cuoca molto ordinaria. Jenny vi saprà fare cose dozzinali, buoni biscotti, buone focacce. Ma la sua pasta sfoglia vale poco. Oh, la sfoglia di Jenny vale poco, poco davvero. Ma passate un po' alle cose fini. Che può essa fare? Fa dei pasticci, diamine. Ma la crosta, in che modo la sa formare? Vi farà essa una pasta sottile e morbida che si squagli sotto la lingua e solletichi ogni papilla del palato? Per esempio, quando io andai da Miss Maria che si maritava, Jenny mi fece vedere i pasticci da nozze. Pah, che pasticci! Veramente io e Jenny siamo buone amiche, come sapete. Io non ne ho mai detto male, ma credetemi, padroncino Giorgio, non avrei potuto chiudere occhio per un'intera settimana se avessi mandato al forno pasticci simili. Jenny li credette bensì di fattura stupenda. Certo che li credette, almeno ella me li mostrò come tali, ma ella non sa neppure che siano le cose perfette. Che volete mai aspettarvi da Jenny? Del resto non è colpa sua. Ah, padroncino Giorgio, voi non conoscete la metà dei vantaggi che avete di essere educato nella vostra famiglia. E qui la zia Chloe mandò un gran sospiro e volse con una certa commozione gli occhi altrove. Vi assicuro, zia Chloe, disse Giorgio, che io comprendo benissimo tutto il vantaggio dei miei pasticci e dei miei pudding. Domandate un poco a Tom Lincoln se non gli empio le orecchie tutte le volte che lo incontro. La zia Chloe si gettò addietro sulla seggiola ridendo sgangheratamente di quell'arguzia del suo padroncino e rise tanto di cuore che le lacrime scorsero sulle sue guance d'ebano. Ella si pose a folleggiare con lui dicendo va là furfantello, vuoi farmi crepare dalle risa?» E la zia Chloe fu presa in questo punto da una più forte convulsione di riso, così che Giorgio cominciò a credersi veramente un ragazzo di spirito e a pensare che da allora in poi doveva porre grande attenzione a chi si rivolgeva quando gli venisse il ticchio di celiare. «Voi, dunque, ne empite spesso le orecchie a Tom? Oh, guardate di che si intrattiene questa gioventù! Lo volete davvero soverchiare, quel povero Tom? Ah, padroncino Giorgio, fareste ridere anche un morto!» «Sì, lo dissi a Tom. Vorrei pur farvi assaggiare i pasticci di zia Chloe, sono i migliori del mondo!» «Povero Tom!» soggiunse la zia Chloe, che per tenerezza di cuore sentiva pietà della dura condizione di quell'infelice giovanotto. «Voi dovreste invitarlo qualche giorno a pranzo da noi. sarebbe un'azione meritoria. Già sapete, padroncino Giorgio, che non bisogna credersi da più degli altri a cagione dei propri vantaggi. Questi ci sono concessi dall'alto, non è vero? Convien pure ricordarsene, disse la zia Clo con voce solenne. Va benissimo, io inviterò Tom un giorno della prossima settimana e al resto penserete voi, zia Clo. Lo rimpinzeremo in modo da farlo stare a letto per 15 giorni. «Sì, sì, ma davvero!» disse la zia Clo tutta gongolante. «Vi farò vedere io. Ah, quando penso ad alcuno dei molti bei pranzi da noi fatti, vi rammentate di quel grosso pasticcio di selvaggina che feci quando avemmo a pranzo in casa nostra il generale Knox? La signora Dio fumò un pelo di attaccar lite a proposito della crosta. Io non so di che si impicciano talvolta le signore. Ma appunto quando una poveretta è oppressa sotto il peso del suo amor proprio, quando sta con tutta la mente al suo dovere, esse vengono a volteggiarvi intorno e si brigano di ciò che non le riguarda. Ebbene, quel giorno la signora voleva che io facessi la tal cosa, che facessi la tal altra, tanto che alla fine io mi lasciai sfuggire un'impertinenza. «Ma signora», le dissi, «fatemi la grazia di guardarvi le belle manine bianche e quelle dita leggiadre tutte risplendenti di anelli, e poi guardate, ve ne prego, le mie nere zampacce. Ora, non è evidente che Dio destinò me in cucina a far croste di pasticci e voi a rimanervene in sala a ricever visite?» «Sì, caro padroncino Giorgio, io ebbi l'impudenza di dirle questo». «Oh, e la mamma che risponde?» Che rispose? Mi parve di scorgere un sorrisetto in quei grandi e begli occhi suoi e mi disse: «Bene, bene, zia Clo, avete forse ragione». E se ne tornò in sala. Avrebbe dovuto farmi frustare per la mia impertinenza, ma che volete? Le signore sono d'impaccio alla cucina. Oh, quel pranzo! Beh, me ne ricordo, vi riuscì maravigliosamente. Tutti ne parlavano, zia. Non è vero? E io che mi tenevo dietro l'uscio della sala da pranzo. Vidi il generale ridomandare per ben 3 volte di quel medesimo pasticcio. «Voi avete», disse, «una cuoca famosa, signora Shelby». Io ero sì gonfia d'orgoglio che più non capivo nella pelle, e il meglio è che il generale se ne intende, proseguì la zia Clori alzando la testa. «È un uomo propriamente di garbo, quel generale, d'una delle primarie famiglie della Virginia, se ne intende al pari di me, lui». Ascoltando così chiacchierare la zia Clo, Giorgio era venuto a quel punto in cui riesce impossibile anche per un giovinetto della sua età di inghiottire un boccone di più. Egli pertanto ebbe agio di scorgere dall'altro lato della stanza 2 paia di occhi rilucenti che lo guardavano immobili. «Olà, Pietro, Mosè!» gridò egli spartendo gli avanzi del suo banchetto. «Vi bisogna qualche cosa anche a voi, non è vero? Su, zia Clo, date loro qualche focaccetta». Giorgio e Tom si assisero accanto al fuoco mentre la zia Clo, dopo aver imbandito una seconda mensa, si pose a cena tenendo sulle ginocchia la sua figlioletta che faceva mangiare con sé. In quanto ai 2 ragazzi più grandetti, essi preferirono di divorar la porzione loro arrotolandosi per terra, solleticandosi con pizzicotti e, per variare il loro sollazzo, venendo tratto tratto a tirare per gioco i piedi della sorellina. «Volete lasciarmi in pace?» diceva la mamma dando alla cieca urtoni col piede sotto la tavola quando il tumultuare diveniva cosa insopportabile. «Non potete dunque stare un po' quieti quando qualcuno viene a farci visita? Badate bene che avrete da fare con me quando il padroncino Giorgio se ne sarà andato». Non parve che a questa minaccia sbigottissero gran fatto quei monelli, perché le grida e il dibattersi continuarono più di prima. «Ma si è mai veduto niente di simile di questi insolentacci?» gridava la zia Clo con una segreta soddisfazione. Poi, tirando fuori per la punta un vecchio tovagliolo riservato a quest'uso, lavò e strofinò la faccia della sua morettina fino a farla luccicare. Indi la posò sulle ginocchia di Tom e, mentre questi la sobbalzava pianamente, andò a riporre i residui della cena. «Non è bellina e graziosa?» disse Tom, mentre la bambina si divertiva a tirargli il naso e a graffiarlo, e, postala a sedere sopra la sua larga spalla, si diede a ballare e sgambettare, mentre i 2 ragazzetti gli ballavano intorno strillando, e così continuarono tutti finché furono stanchi. «Via, spero che sarà finita», disse la zia Clo, e tirando fuori di sotto il letto una cassa che serviva di giaciglio ai figli, ingiunse loro di coricarsi. «Poiché», disse, «avremo fra poco l'adunanza religiosa». «Ah, mamma, lasciateci assistere all'adunanza, è così bella un'adunanza, ci piace tanto». «Su via», disse Giorgio, «rimandate il lettuccio al suo posto e lasciateli in piedi». E così dicendo diè una spinta decisiva al rozzo giaciglio. Salvate così le apparenze. Fu ben lieta la zia Clo di rimettere la cassa a posto. «Chissà», diceva fra sé, «potrebbero anche trarne profitto». Poi la famigliuola attese a disporre le cose per trasformare la capanna in sala di adunanza. «Dove prenderemo delle seggiole adesso? Davvero che non saprei!» Ma siccome da lunghissimo tempo le adunanze si tenevano ogni settimana presso lo zio Tom, eravi da sperare che anche quella sera si sarebbe trovato un mezzo per uscire d'impaccio. «Il vecchio zio Pietro ruppe la scorsa settimana le gambe di questa seggiola», disse Mosè. «Credo che invece tu stesso abbia fatto il malanno», osservò la zia Clo. «Basta appoggiarla al muro», suggerì Pietro, «starà salda». «In questo caso», disse l'altro ragazzo, «non bisogna lasciarvi sedere lo zio Pietro, perché egli si dimena tanto nel cantare che l'altra sera finì col trovarsi dall'altro lato della stanza». «Anzi», replicò Mosè, «bisogna farvelo sedere. E quando egli si metterà a cantare, sul più bello lo vedremo ruzzolare in terra». E Mosè, dopo aver imitato la voce nasale del povero vecchio, fece il capitombolo per dimostrare con l'esempio la catastrofe preveduta. «È un po' di creanza, se è possibile», disse la zia Clo. «Non vi vergognate!» Ma essendosi Giorgio unito alle sghignazzate dei due ragazzini neri, dicendo che Mosè era un vero pagliaccio, la materna ammonizione mancò alcun poco di effetto. Frattanto, due botticelle vuote vennero rotolate entro la capanna e alcune tavole vi furono collocate sopra a guisa di panche. Varie secchie e mastelle rovesciate, in compagnia di altre due seggiole zoppe, completarono i preparativi. «Ora il signor Giorgio, che legge sì stupendamente», disse la zia Clo, «ci farà un po' di lettura, non è vero?» E Giorgio acconsentì di buon animo. I giovani della sua età sono sempre disposti a far ciò che dà loro una qualche importanza. Tosto la stanza incominciò a riempirsi di una numerosa assemblea di neri, nella quale il patriarca di 80 anni trovavasi accanto alle fanciulle e ai giovinetti di 15. La seduta si aperse, come era ben naturale, con un innocente cicalio. Si parlò del bel fazzoletto rosso della vecchia zia Sally, della veste di mussolina rosa che la signora doveva fare a Elisa, e si narrò come il signor Shelby si proponesse di comprare una bella cavalla baia, acquisto che accrescerebbe lo splendere della casa. Alcuni dei fedeli radunati appartenevano a famiglie del vicinato, ciascuno riferiva qualche notizia della sua casa o della piantagione di cui faceva parte, e questo minuto cicaleccio otteneva qui una sì buona accoglienza come sarebbe avvenuto nei crocchi della società più elevata. Dopo quelle prime chiacchiere che erano come un'introduzione, il canto cominciò con vera allegrezza di tutti. L'intonazione nasale dei cantori non attenuava l'effetto delle loro voci naturalmente belle e delle loro melodie selvagge ma ispirate. Alcune strofe provenivano dalla collezione degli inni solitamente cantati in una chiesa vicina. Altre, di una poesia più mistica, erano state apprese da quei neri nelle adunanze dei campi. E con quanta energia e con quanta unzione si cantavano il coro. Cantarono poi altri inni, tutti pieni delle rive del Giordano, delle ubertose terre di Canaan, della Nuova Gerusalemme, perché il nero, di indole appassionata, immaginosa, ama il canto e le espressioni vivaci, pittoresche. E mentre cantavano, alcuni ridevano, altri versavano lacrime di gioia, chi applaudiva, chi stringeva la mano al vicino in segno di simpatia e di contentezza. Nel vederli si sarebbe creduto che avessero allora tragittato il Giordano. Tra un cantico e l'altro si udivano varie esortazioni e racconti di esempi religiosi. Una vecchia coi capelli canuti, inabile da lungo tempo al lavoro, ma tenuta in venerazione come un oracolo del passato, si alzò in piedi e, appoggiata al suo bastone, disse: «Figliuoli, io godo nell'anima di avervi veduti e sentiti ancora una volta. Non so quando partirò per la gloria, ma ormai io me ne sto pronta, figliuoli. Mi sembra di aspettare, col mio fagottino in spalla, col mio cappello in testa, la corriera che deve trasportarmi nella mia patria. Talvolta, di notte tempo, mi par di udire lo strepito delle ruote e guardo se mai comparisse. Fate dunque di essere preparati anche voi, perché ve lo dico io, figliuoli miei», soggiunse battendo la terra col bastone, «è bella, maravigliosamente bella la nostra patria». e la buona vecchierella si pose a sedere, mezza soffocata dalla commozione, con le guance inondate di lacrime, mentre tutta quanta l'assemblea intonava il cantico: «O Canaan, o Canaan, nostra patria diletta, a te l'alma più si affretta, quanto è tardo e pigro il pie». A richiesta generale, Giorgio lesse gli ultimi capi dell'Apocalisse in mezzo alle esclamazioni dell'uditorio. «È possibile? Veramente? Su via, date ascolto, chi l'avrebbe potuto immaginare? È tutto ciò ad avverarsi?» Giorgio, intelligente com'era e istruito da sua madre nelle cose di religione, vedendosi oggetto dell'ammirazione generale, aggiungeva spiegazioni di sua testa con una serietà da uomo attempato. I giovani lo ascoltavano ammirando, i vecchi lo benedicevano, tutti concordavano nel dire che un ministro non avrebbe potuto parlar meglio. Lo zio Tom era considerato dai neri dei dintorni come un oracolo in materia religiosa, di un animo in cui prevaleva il senso morale più istruito e di più sano criterio dei suoi compagni. S'era acquistato il loro rispetto ed esercitava in mezzo ad essi una specie di apostolato. Le sue esortazioni, ingenue e commoventi, avrebbero convinto persone più colte che egli non fosse, ma nulla potrebbe dare un'idea della semplicità e della serietà infantili delle sue preci. Le parole della Sacra Scrittura si frammischiavano così naturalmente alle sue che parevano fluirgli dal cuore ed eccitava in sommo grado la devozione di chi lo ascoltava. Mentre queste cose avvenivano dentro la capanna dello zio Tom, un'altra scena di genere ben diverso succedeva nella casa del padrone. Il signor Shelby e il mercante di schiavi erano di nuovo nella sala da pranzo, vicini a una tavola piena di carte. Dopo aver contato vari biglietti di banca, il signor Shelby li consegnò al mercante. «Va bene», disse questi contati che li ebbe a sua volta. «Adesso qua la vostra firma». Shelby prestamente sottoscrisse i contratti di vendita come chi si affretta a concludere un affare che gli dispiace e li mandò a raggiungere i biglietti di banca. Haley trasse da un lercio portafoglio un documento. Lo esaminò alquanto, indi lo presentò al signor Shelby, che lo prese con un'impazienza mal dissimulata. «Oh, finalmente ecco un affare finito», disse il mercante di schiavi alzandosi da sedere. «Sì, è finito», soggiunse Shelby in aria pensosa. «Finito», ripeté egli sospirando con sforzo. «Voi non mi sembrate gran fatto contento», disse il mercante. «Haley, spero che mi manterrete la vostra promessa e non venderete Tom senza ben vedere prima in quali mani lo date». Ma non faceste voi orora il contrario di ciò che mi raccomandate? Voi sapete pure che le circostanze mi vi hanno costretto, rispose Shelby con alterezza. Oh, esse possono costringere anche me allo stesso modo. Ma non parliamone più, io mi ingegnerò di collocarlo bene. Per conto mio non avete da temere che egli incontri mali trattamenti. Se c'è cosa di cui io debba ringraziare il cielo è di non essere mai stato crudele. Dopo l'esposizione che Haley poche ore prima aveva fatta come intendesse l'umanità, cotesta dichiarazione non era tale da assicurar troppo l'animo del signor Shelby, ma poiché non poteva fare altrimenti, dovette contentarsi. Lasciò andar via il mercante e si pose a fumare un sigaro.